Capitolo 12. Coppia di opposizione minimale. N nasale alveolare semplice, doppia N nasale alveolare geminata. Esercizio 1. Ascolta le coppie di parole facendo attenzione alla pronuncia della N e della doppia N. 1. Seno, senno. 2. Pane, panne. 3. Cane, canne. 4. Sano, sanno. 5. Ceno, cenno. 6. Giovani, giovanni. 7. Sono, sonno. 8. Tono, tonno. 9. Bene, venne. 10. Pena, penna. 11. Dona, donna.